In primo piano. Le 7:33 minuti, una buona giornata da Laura Bettini. Vediamo insieme le prime pagine dei quotidiani e tutto quello che sarà possibile leggere delle pagine interne. Cominciamo dal Sole 24 Ore, il titolo di apertura è "Liquidità, se arriva in tre mesi è tardi". Le modalità di applicazione del decreto liquidità faranno la differenza, si scrive, ma il timore di molte imprese è che le procedure richiedano almeno 2 o 3 mesi, soprattutto se il via libera europeo e le attività di SACE per la delibera dei finanziamenti non arriveranno in tempi rapidissimi. Il Centro Studi Confindustria stima, in uno scenario di fine epidemia a giugno, il fabbisogno di liquidità nel 2020 in 30 miliardi di euro, 80 miliardi con fine epidemia a dicembre. Così Lello Naso al centro pagina. Trump pronto a cacciare China Telecom dagli Stati Uniti. Il colosso cinese delle TLC rappresenterebbe un rischio per la sicurezza nazionale. E poi ancora Conte, l'Italia insiste sugli eurobond, non firmo l'attivazione del MES. Attacco a Salvini e Meloni, mentono sul salva stati e la replica intervenga il Colle. Ne abbiamo abbondantemente parlato nel corso dei nostri giornali radio. Sempre dalla prima del Sole 24 Ore, nell'approfondimento food del sabato, questa volta mense, ristoranti e bar chiusi, fornitori in crisi. Questo è l'approfondimento che sceglie Giorgio Dell'Orefice, cura. Ricordo anche con il Sole 24 Ore oggi, ne troviamo traccia in prima pagina con un richiamo, la guida allo smart shopping in questo periodo in cui tutti, insomma, siamo diventati degli acquirenti digitali. E il Sole 24 Ore propone questa guida corposa, 72 pagine, in cui si analizza un po' tutto questo settore, le regole antitruffa, le novità per i ristoranti, i piccoli esercizi, le prenotazioni online, i sistemi di pagamento, le carte destinate solo a questo tipo di acquisti online. I mutamenti attesi infine anche nel settore della consegna e della logistica, quindi un approfondimento, come dicevo, 72 pagine, quindi corposo su tutto quello che riguarda l'acquisto online, di cui stiamo diventando ormai tutti partecipi in questo periodo. Sulla Repubblica, Conte all'Europa, così non firmo, no al MES, vogliamo i Corona Bond, si apre scontro con il PD, c'è un'intervista al Presidente del Parlamento Europeo Sassoli, è sbagliato bocciare il Fondo Europeo per la Salute, così si scrive. Poi nel dettaglio, il nuovo MES non va respinto a priori, è un fondo salva salute per ospedali e ricerca. L'intervista è di Alberto D'Argenio e appunto molto, molto nel dettaglio si scende. Il Parlamento europeo ha messo in campo un fondo salva salute al quale i paesi interessati possono accedere liberamente senza condizionalità aggiuntive a tassi prossimi allo zero, ma non basta. Sassoli chiede ai capi di Stato e di Governo di essere coraggiosi, di lanciare in tempi brevissimi il fondo per la ricostruzione capace di andare sul mercato con i recovery bond. Per uscire dalla crisi serviranno oltre 1.500 miliardi. Presidente, gli si chiede come giudica il risultato dell'Eurogruppo. Avevamo detto che volevamo un'Europa più forte, vediamo con piacere che l'Eurogruppo ha indicato strumenti che danno un indirizzo più comunitario e meno governativo, sono misure a disposizione dei cittadini e degli stati con un rafforzamento delle istituzioni europee e del processo democratico. Inoltre sul fondo per la ricostruzione è emersa la volontà di costruirlo con una capacità di finanziamento che non esclude la possibilità di andare sui mercati. Questo è solo un assaggio. Poi dalla prima di Repubblica vediamo anche l'editoriale di Carlo Verdelli dal titolo "Che cosa meritano gli italiani". C'è un riassunto di ciò che accade e per poi così vi porto direttamente verso le conclusioni, non tutte perché sono anche qui molto un articolo corposo. Servirebbe quello che non abbiamo, scrive Verdelli, rinserrare le fila nel momento cruciale dove è in gioco la tenuta civile. ci spingeremmo a dire la sopravvivenza di una certa idea dell'Italia, un governo coeso che è l'esatto contrario di quello che sembra lasciare in eredità uno dei più tormentosi venerdì di passione della nostra storia repubblicana, un'assunzione di responsabilità collettiva senza calcoli né retropensieri elettorali per presentare a un paese che comincia pericolosamente a sbandare un elenco di cose che si possono fare e di cose che invece non si possono fare, spiegando con chiarezza le ragioni dei sì e dei no, sia in tema di limitazioni per ragioni di salute pubblica, sia di finanziamenti realmente disponibili per sostenere l'aggravio della crisi. Questo un passaggio per capire il tono appunto di questo editoriale. Corriere della Sera, l'apertura, scontro sugli aiuti europei, Salvini e Meloni attaccano, Conte, falsità, voi contro l'Italia, negozi, ecco chi riapre. Sono confermate le chiusure fino al 3 maggio e poi Colau guiderà il comitato per la ripartenza, calano i ricoveri, oltre 30.000 i guariti. Al centro pagina una fotografia di Piazza San Pietro, deserta per il rito della Via Crucis, Papa Francesco ha ricordato il dolore del mondo oppresso dalla pandemia. Sono vicino al dolore del mondo, penso ai crocifissi di questa pandemia, medici, infermieri, suore e sacerdoti che muoiono per amore, le parole di Papa Francesco durante la Via Crucis del Venerdì Santo, in una piazza San Pietro deserta. Anche medici e infermieri hanno portato la croce insieme ad esponenti del mondo carcerario. E poi un'altra fotografia è quella che arriva da questa fossa comune che si sta scavando a New York, protetti da tute e mascherine, operai e personale delle autorità di New York seppelliscono i morti per il virus nella fossa comune di Hart Island nel Bronx. Quelle fosse comuni per i morti di New York, scrive Massimo Gaggi, talmente tanti morti per coronavirus nello stato di New York che i cimiteri non bastano più. Le autorità hanno deciso dunque di scavare fosse comuni. Una è stata realizzata ad Hart Island nel Bronx. Decine di lavoratori assunti per i lavori servirà anche per quelle famiglie non in grado di sostenere le spese per funerale e sepoltura. Per quel che riguarda l'Italia, c'è poi in prima e in più pagine nell'interno l'inchiesta sulle case di riposo, un indagato per le vittime, in particolare primo indagato dalla Procura di Milano per i morti nelle case per anziani, è il direttore generale del Pio Albergo Trivulzio. La Stampa, Conte, solo una mini riapertura per l'Italia, meno ricoverati in terapia intensiva, 570 nuove vittime, nel mondo oltre 100.000 decessi, il capo del governo a Salvini sul MES, bugiardo. Fino al 3 maggio via libera a librerie, cartolerie, lavanderie, alberghi e negozi per neonati. Il mondo produttivo senza senso. Viminale è il commento. Viminale in allarme per l'usura da parte delle cosche e la protesta antistato sul web. Colau alla guida del team per la ricostruzione. E poi, sempre dalla prima, leggiamo appunto. L'Italia resta chiusa fino al 3 maggio, dopo Pasqua riapriranno solo librerie, cartolerie, lavanderie, negozi per neonati e hotel, maglie più larghe anche per gli studi professionali. Conte, non reggeremmo un contagio di ritorno e le imprese rispondono senza senso. Sempre meno ricoverati nelle terapie intensive, ma ancora 570 morti nelle ultime 24 ore. C'è poi il commento di Marcello Sorgi, il premier stretto tra Movimento 5 Stelle e PD, quindi come su Repubblica si torna su questo tema dello scontro tra forze politiche, colpiscono non tanto gli attacchi di Salvini e Meloni, scrive Sorgi, induriti dalla fine del confronto con il governo sulle misure da prendere, piuttosto i movimenti interni alla maggioranza giallorossa, con Conte in mezzo e margini di manovra sempre più risicati. Semplificando, nella difficile trattativa a livello europeo che ha occupato il primo mese del lockdown, mentre il virus piegava uno dopo l'altro i maggiori partner dell'Unione, si è assistito non solo a un duro braccio di ferro tra Europa del Nord e del Sud sul tema dei corona bond, cioè del tasso di solidarietà indispensabile in un frangente che sta mietendo vittime a migliaia. Il Giornale, meno soldi, più tasse, il PD vuole la patrimoniale, Conte perde la testa, il sottotitolo, dopo il flop europeo il Premier attacca l'opposizione in diretta TV, i Dem, Covid, tax oltre gli 80.000 euro, Berlusconi dice un disastro. Alessandro Sallusti, il direttore, scrive: l'Italia è stata lasciata sola ad affrontare la micidiale crisi economica, non ci saranno né aiuti né corsie preferenziali se non per la stretta gestione dell'emergenza sanitaria. E quindi dovremo pagare noi il conto, come si evince dalla proposta lanciata ieri dal PD di approvare subito una patrimoniale al ceto medio. Insomma, tra gli 80.000 euro e il ceto medio c'è da mettersi d'accordo. Comunque, maledetto virus, ma anche maledetta sinistra. Lo so, alla vigilia di Pasqua non si dovrebbe dire, ma è così, che non sa che tassare. Ci avevano promesso aiuti, i soldi di cui parla Conte sono come quelli del Monopoli, un gioco, e ci ritroviamo con la patrimoniale. Parlano di centinaia di miliardi stanziati, ma nell'economia reale arriveranno forse decine di milioni. Qualche passaggio di quanto scrive Sallusti oggi su Il Giornale, dove si ricorda tra l'altro la sottoscrizione ed è stato consegnato il vostro assegno da 3 milioni, consegnato ieri al Pirellone dai direttori Sallusti e Feltri, l'assegno da 3 milioni raccolta appunto tra i lettori. Andiamo al Quotidiano Nazionale, stop fino al 3 maggio, sfida all'UE, il discorso di Conte, riaprono solo librerie, cartolerie e negozi per neonati, una squadra per la fase 2, all'Europa dico l'Italia non ha bisogno del MES, chiediamo gli eurobond, stoccate a Salvini e Meloni. Nei titoli vediamo già un po' la confusione su chi apre e chi non apre, insomma, comunque vediamo sempre elenchi in cui compaiono sempre librerie e cartolerie e i neonati, poi ci sono delle varianti. Centropagina, una fotografia che arriva, leggiamo, da Corso Brunelleschi a Torino, traffico e folla anche a Milano e Roma, siete troppi, state a casa. Questo è il titolo. Studio rivela il lockdown ha evitato 200.000 ricoveri, resta però in molte città, da oggi aumentano i controlli. A proposito di questo, per quello che riguarda la città di Firenze, apprendiamo posti di blocco e blitz con i droni, caccia ai furbetti del fine settimana, ma non sarà solo a Firenze, sarà un po' ovunque. Da Firenze arriva però l'intervista che poi viene nelle pagine in cronaca pubblicata al farmaceutico militare che produrrà la clorochina, questo farmaco che viene utilizzato in combinazione con altri. C'è un'intervista, appunto al chimico farmaceutico militare Eccellenza Fiorentina, che era già in pista per produrre sostanze ad attività germicida e battericida. Leggiamo, ecco, il colonnello Antonio Medica, nomen omen, noi come unità produttiva dell'Agenzia Industria Difesa abbiamo una capacità di produrre compresse perché quotidianamente produciamo farmaci orfani che distribuiamo a oltre 3.000 pazienti italiani, quindi non abbiamo difficoltà tecniche ad avviare anche una produzione di questo tipo di medicinale. Stiamo già individuando possibili fornitori internazionali della materia prima perché si deve partire dalla disponibilità della materia prima, conclusa. Abbiamo già individuato delle strade per poterla approvvigionare e una volta che arriva la materia prima possiamo mettere a punto compresse o capsule in tempi relativamente brevi. Un nuovo concreto impegno nella battaglia quindi arriva da Firenze. La combinazione che ora si usa di più è la clorochina, che è un antimalarico, insieme alla azitromicina, che è un antibatterico, e pare che funzioni perché si tratta di farmaci che interferiscono con alcuni processi della cellula che sono importanti per l'assembramento dei vari componenti del virus. Insomma, in qualche modo così si ritarda la sua moltiplicazione. Su Avvenire, anzi abbiamo la viabilità prima e poi proseguiamo. In primo piano. Ecco, continuiamo con la rassegna stampa. Dicevo, siamo su Avvenire, dove oggi c'è una lettera del Premier Conte che esprime apprezzamento per il terzo settore. Tra l'altro, Conte, grazie alla Chiesa, in questi giorni cruciali. Questo è il titolo che è stato scelto per la lettera del Premier. Poi vi leggo qualche passaggio, però vi do conto prima dell'apertura. Scelta per la sicurezza, questo è il titolo. Prolungate le chiusure fino al 3 maggio con qualche deroga. La fase 2 guidata da un gruppo di esperti. Il Premier: in Europa insisteremo per gli eurobond, diciamo no al MES. Falsità da Salvini e Meloni. Poi ovviamente una fotografia della Via Crucis, la prima volta di un Venerdì Santo senza fedeli, meditazioni preparate nel penitenziario di Padova, oggi ostensione televisiva e social della Sindone. Parla il carcere, Francesco prega in silenzio. Tra i passaggi della lettera del Premier Conte, il Premier ricorda, è un segno del tempo, che gli ingenti fondi dell'8 per 1000 devoluti dalla CEI per la lotta alle conseguenze siano stati devoluti dalla CEI alla lotta per le conseguenze sanitarie e socio-economiche della pandemia, e ancor più la responsabile comprensione della necessità di liturgie sine populo. E poi ancora si ricorda l'importante ruolo del terzo settore, del volontariato accanto ai più deboli e vulnerabili, e grande interesse per la proposta di una simbiosi generazionale contenuta nell'appello per il rilancio del servizio civile universale. Questi sono i due passaggi in evidenza su Avvenire e della lettera del Premier Conte. Da Avvenire andiamo a Libero. Libero che titola Pasqua di mortificazione, altro che resurrezione. Anche qui si ricorda l'assegno da 3 milioni che il giornale e Libero hanno raccolto tra i lettori e consegnato al governatore Lombardo Fontana. Dicevo, Pasqua di mortificazione è il titolo di apertura. I soldi promessi dal governo non sono arrivati, l'UE ci ha fatto marameo, resteremo agli arresti domiciliari fino a data da destinarsi. In compenso Conte dice che aprirà le cartolerie. Il Premier ci rovina la cena, irrompe in TV per attaccare Salvini e Meloni. Al centro pagina, patrimoniale per chi prende oltre 80.000 euro, il PD se ne esce con una proposta comunista. E poi ancora, l'Europa ha deciso di sganciare, ma i conti li controlla lei. L'Italia potrà avere fino a 90 miliardi purché ogni spesa sia approvata da Bruxelles. Così presenta la questione Libero. Il Fatto Quotidiano, anche Conte nel suo piccolo si incazza, questo è il titolo. Premier di guerra attacca il MES, Salvini e Meloni. La fotografia è quella del Premier Conte e poi altre tre figurette, che sono quella della Meloni, quella di Salvini e di Ursula von der Leyen. E poi i quattro punti, diciamo, su cui si concentra il Fatto Quotidiano. Il primo: cos'è successo all'Eurogruppo, MES e Bond, la vera storia. Due: chiudere tutto, no riaprire tutto, i Volta Gabbana apri e chiudi. Al terzo punto, dietro Alzano, i RAS della sanità, il DG al telefono dice riaprite, il direttore generale. Il quarto punto, classifica dei ribelli alle regole, i più furbetti e multe al nord. Questi sono gli approfondimenti che poi il Fatto Quotidiano porta nelle pagine interne. Uno di questi è quello che dicevo, appunto, MES e Bond, la vera storia. Vi leggo l'incipit, Carlo Di Foggia: quando un accordo viene letto diversamente da tutti i suoi contraenti è chiaro che il problema è solo rinviato. L'intesa siglata giovedì notte all'Eurogruppo dai 27 ministri delle finanze dell'UE è un esercizio di equilibrismo linguistico. È il primo passo verso l'emissione di debito comune, secondo il ministro Roberto Gualtieri. Per il suo omologo olandese, Extra, è volutamente vago invece, in modo che l'Italia ci possa vedere ciò che vuole, ma la sostanza è chiara. In nessuna parte si può leggere una condivisione del debito, contro cui peraltro il Parlamento dell'AIA ha già votato ben due volte. Quindi, cosa è stato approvato? E di lì parte poi dopo l'analisi di Carlo Di Foggia. Il manifesto, James Bond, questo è il titolo sulla fotografia del Premier Conte. Combatteremo per ottenere gli Eurobond, il MES non serve all'Italia, è inadeguato, non lo firmeremo. Conte avverte l'Europa sugli aiuti, attacca Salvini e Meloni, da loro falsità contro il governo. Poi annuncia la riapertura di alcune attività produttive e commerciali dal 14 di aprile. Ma per la fase 2 se ne riparla dopo il 3 di maggio. Sulla questione della tassa proposta dal PD il manifesto ha tutt'altra visione rispetto a quella che abbiamo trovato sul giornale E Libero, comprensibilmente. Tassa solidale, il PD ha una buona idea, questo è il titolo proposta del gruppo Dem, ma il partito non la difende, infatti sappiamo non arriva dal partito ma dal la proposta arriva dal gruppo del PD alla Camera. Dunque, dalla prima del manifesto trovo anche un approfondimento su Olanda, il paese cattivo, posto tra virgolette, che piace alle multinazionali. È un articolo che approfondisce un po', tratteggia un ritratto dell'Olanda con tinte, diciamo, diverse. E un approfondimento sull'Olanda lo troviamo tra l'altro anche sul Sole 24 Ore oggi, titola un po' più esplicitamente il dossier segreto che svela il sistema Olanda di Roberto Galullo e Angelo Mincuzzi, un'inchiesta che tratteggia un paese un po' a tinte fosche, gli intrecci tra politica e affari in un documento riservato messo a punto durante lo scontro per la sede dell'EMA, ricorderete l'agenzia che si doveva europea del farmaco, che si doveva spostare da Londra per via della Brexit, che poi finirà ad Amsterdam nella nuova sede che voleva ospitare in realtà anche Milano, ma insomma finì diversamente con un sorteggio. E in quell'occasione fu fatta appunto una indagine di cui dà conto oggi Sole 24 Ore. E non è un ritratto, diciamo, lusinghiero dell'Olanda quello che viene fuori da quel rapporto stilato all'epoca dell'EMA e dall'inchiesta poi condotta, come dicevo, da Galullo e Mincuzzi. La verità, la disfatta di Conte, questo è il titolo, governo umiliato in Europa, il PD si vendica derubando gli italiani, niente Eurobond, resta solo il fondo ammazza stati, esultano tedeschi e olandesi. Noi rimaniamo in mutande, mentre il partito che sostiene il Premier vuole imporre un'altra tassa su chi guadagna più di 80.000 euro lordi. Mandiamoli via prima che sia tardi. Questo le conclusioni a cui giunge la verità. Andiamo al Messaggero. Conte, Eurobond o non firmo, a fondo in TV, il MES strumento inadeguato, non l'abbiamo accettato, Salvini e Meloni mentono. Lega e Fratelli d'Italia contro di noi insulti, intervenga il Colle, il Movimento 5 Stelle accerchia il Premier, devi dire no al salvastati. Poi sempre sul Messaggero una fotografia di Piazza San Pietro deserta, come sappiamo, per la Via Crucis. Poi c'è un'intervista, solo il 2% di multe, il prefetto, i romani rispettano le regole, attenzione però alle periferie, c'è un rischio di tensioni sociali, così il prefetto di Roma Gerarda Pantalone in una intervista al Messaggero. Ultimi 30 secondi, andiamo al Secolo XIX, sia librerie e negozi per neonati, task force per ricostruire l'Italia, questo è il titolo di apertura. Centropagina, torna il traffico a Genova, controlli in tutta la Liguria. E un po' le fotografie testimoniano questo traffico nelle principali città italiane. A Genova appunto, come abbiamo detto, abbiamo visto, no? A Milano, a Torino, a un po' ovunque sono tornate le auto e quindi questo testimonia di maggiori spostamenti che invece non dovrebbero verificarsi. Ci fermiamo qui, c'è GR24, ci ritroviamo alle 8:30 con Si può fare da Laura Bettini, un buon proseguimento d'ascolto.